Buonasera Claudio. Come va lì in Veneto? Beh, va bene, è stata una giornata molto calda, da voi com'è andata? Ottimo, qui siamo decisamente oltremare, nel sud-ovest della Sardegna. Ah, bello. In mezzo nel cuore del Golfo di Oristano, subito sopra la Costa Verde e sotto la penisola del Sinis. È una zona abbastanza sconosciuta di Sardegna, tutti conoscono la spumeggiante, glittering e ricca Costa Smeralda, pochi conoscono la costa che sta all'estremo opposto, che è un po' una regione, diciamo, non troppo sviluppata turisticamente, che mantiene ovviamente il gusto e i sapori delle strade sterrate, dei paesi semplici, della Sardegna molto, molto poco commerciale. Ecco. Hai fatto una spiegazione ottima, bellissima. Cosa facciamo stasera? Parliamo della tua bella, vasta discografia, partendo dall'inizio, partendo dagli Stormy Six, Claudio. Beh, intanto salutiamo gli amici e le amiche. Certamente, soprattutto quelli. Non è previsto avere un ascolto in diretta con gli ascoltatori? No, quello non è previsto, no. Però ci sentono lo stesso via streaming audio. Ad ogni modo, possiamo dire che se qualcuno che sta ascoltando avesse voglia di fare una domanda, ok, possiamo fare un escamotage. Certo. Se qualcuno sta ascoltando e ha familiarità con Facebook, se ha voglia di intervenire e fare una domanda alla quale io risponderò ovviamente immediatamente in diretta, non ha che da andare sulla mia pagina di Facebook, cercare il link, l'informazione di questo programma che ho pubblicato questa mattina e lì fare un commento, nel luogo dei commenti fare la domanda. Io monitorerò di tanto in tanto per vedere se qualcuno ha voglia di fare una domanda per iscritto alla quale io risponderò in voce via web. Perfetto, benissimo, chiarissimo. Claudio, partiamo con gli Stormy Six, 1969. A tal proposito, nel tuo sito hai scritto, parlando di questo disco degli Stormy Six, le idee di oggi per la musica di domani. E suonavamo nelle feste della Milano Bene, poche date nei locali. Gli Stormy Six erano secondi in città solo ai New Dada di Aceri, praticamente Maurizio Aceri. Era così? Sì, certo. Diciamo che qui parliamo di un Claudio Rocchi sedicenne. Esatto. Io facevo il liceo scientifico, come tanti a quei tempi suonavo in un gruppo studentesco, ci chiamavamo Gli Sconosciuti, io ero bassista. Con questo gruppetto Gli Sconosciuti avevo partecipato come tanti a un contest, a una competizione su scala nazionale, dove in palio c'era un contratto discografico con l'RCA, che era così il sogno di tutti, avere un contratto con una major. Siamo arrivati in finale, non abbiamo vinto, però fra i 5 finalisti che si sono esibiti al Palalido di Milano davanti alla giuria, mi ricordo in giuria c'era ad esempio, penso, il chitarrista dei Dick Dick, Pietruccio Montalbetti, il chitarrista dell'Equipe 84, e altri insomma di quel momento che in Italia musicalmente era un po' il beat italiano, il pop beat italiano. E io suonavo il basso con Gli Sconosciuti e cantavo. Siamo andati in finale con un pezzo di Bob Dylan nella versione interpretata dai Birds, che si chiamava, cioè il pezzo era Spanish Harlem Incident. E non abbiamo vinto, ma ci siamo ben classificati e soprattutto evidentemente io devo aver fatto una figura sufficientemente interessante, perché come gruppo non abbiamo avuto nessun contratto, però come singolo mi sono guadagnato un'audizione all'RCA e contemporaneamente anche l'offerta dagli Stormy Six, che era un complesso milanese già abbastanza affermato, di andare a suonare con loro il basso perché stavano cambiando bassista. Anche contemporaneamente in quel pomeriggio al Palalido di Milano il piccoletto sedicenne si è preso il primo contatto per una sala di incisione professionale e il primo contatto per suonare con un gruppo che già faceva dischi e che quindi mi sembrava decisamente in un'altra dimensione. Gli Stormy Six di allora non erano, c'è da dire, gli Stormy Six che poi sono diventati noti a molti come un gruppo di rigoroso impegno sociale, politico, nei momenti del movimento degli anni, fine anni 60, prima metà degli anni 70, quello che si chiamava il movimento. Stormy Six hanno fatto molti dischi sono diventati un po' l'icona della contestazione giovanile politicizzata di quegli anni. Ecco, io a quella fase degli Stormy Six non ho partecipato, perché avendo modi, temi e attitudini decisamente a lato, i miei interessi primari in quel momento non erano quelli della lotta di classe, della lotta armata, dell'analisi nel sociale, nel politico, che così tanto andava di moda nelle elite studentesche. A quei tempi io, 16-17 anni, privilegiavo la ricerca così conoscitiva, affascinato dall'Oriente, dalle sue filosofie, dagli incontri, dai movimenti maledetti europei, da Rimbaud, da Baudelaire, dagli scapigliati milanesi, dai futuristi, e come cornice a tutto ciò non poteva mancare a quei tempi quella che si chiamava l'esperienza conoscitiva, quindi l'incontro con, per quanto ingenuo ma assolutamente conoscitivo e non ludico, con le sostanze psicotrope, si facevano i primi esperimenti a fumare la marijuana, l'hashish e queste cose, le droghe cosiddette leggere, no? Che mai hanno provocato danni di alcuna sorta a nessuno, e che non sono da confondere con le droghe cosiddette pesanti, che da sempre provocano danni irreparabili a tutti. Un'altra cosa, ecco, che... Allora, in questo contesto io suonavo con gli Stormy Six, abbiamo fatto il primo long playing, Le idee di oggi per la musica di domani. Questo long playing è fatto di parecchie canzoni, tutte firmate da me e Franco Fabbri. Certo. In realtà metà dei pezzi erano soltanto miei e metà dei pezzi erano soltanto di Franco Fabbri, ma alla maniera, così, con un vezzo di quei tempi, tanto per sentirci un po' McCartney e Lennon, abbiamo firmato tutto insieme. Però alcuni pezzi sono miei e altri no. Tu hai in mente di sentire qualcosa? Sì, io ho in mente di sentire una cosa, Fiori per sempre, che lo trovo bellissimo. E una cosa devo dirti, che tu hai scritto nel sito, una cosa molto simpatica: hai regalato il tuo Marshall il violino di Pagani, che ecco, era una delle cose più stupide che ho fatto nella vita, di cui il tuo amplificatore, che Pagani, il motivo, perché quando poi dopo molti anni quel Marshall mi serviva, io avevo prestato veramente il Marshall a Mauro Pagani, che era stato ingaggiato da quelli prima, sì, che diventassero la Forneria Marconi. Eravamo amici e lui era un ottimo strumentista, però non era attrezzato all'altezza degli altri. Quando l'hanno chiamato per entrare nel gruppo, gli altri avevano tutti i loro Marshall, erano dei professionisti già collaudati. Lui non aveva un amplificatore degno, per cui io, che suonavo il basso con un Marshall di quelli grossi, con la testata e due grandi casse, quelli proprio belli, al momento, in quel periodo, non lo usavo e glielo prestai. Dice: tu tienilo, poi se mi serve te lo richiedo. Salvo poi scoprire, nel momento in cui gli ho richiesto dopo molti anni, che l'aveva venduto e non l'aveva più, no? Per cui, al di là così dell'alone di santità che ho cominciato a coltivare da allora nella mia infinita generosità passata alla storia come stupidità, devo dire che rimpiango quel gesto di generosità, perché direi è assolutamente, con il senno di poi, che è quello che mi auguro di aver conquistato ora, che non si fa così. Ok, sentiamo allora Fiori per sempre. Non venderla perché non ti appartiene, no? Ok. Ora Fiori per sempre da parte di... Ma non è mio, che fai sentire un pezzo? Ah no, che mio, pezzo vuoi che sentiamo allora? No, non va bene. Non va bene allora. Che pezzo è tuo nelle tracce? Ce ne sono sei miei. Tu hai tutto il disco? Ne abbiamo sette. Quanti? Sette ne abbiamo. E dimmi i titoli che adesso hai. Ti dico i titoli. Abbiamo Lui verrà. Non è mio. Una più felice di te. Non è mio. Sotto i portici di marmo. Quella è mia. Perfetto, eccola, mettiamo su quella qua. Allora, sotto i portici di marmo. Vada, pensa che addirittura questa è una delle mie più antiche canzonette, si fa per dire, che ancora adesso in concerto suono, perché per me ha un valore evocativo, è ovviamente vita vera. Quando con la mia fidanzatina 14enne andavamo a fare l'amore vicino ai cimiteri, non perché fossimo pazzi o deviati, ma perché la vita e la morte, il sesso e la morte, in qualche misura noi pazzoidi, giovani pazzoidi sensibili, apparivano come vicende di soglia. In un certo senso sono collegate. Sotto i portici di marmo. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Thank you. respiravano la nebbia di quei morti e parlavamo. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora all'interno di Blu Radio Sera su Blu Radio Veneto, insieme a Claudio Rocchi e a te Maurizio. Claudio, nel tuo sito hai scritto che questa era una risposta a Roy Harper. Sì, sì, certo. Roy Harper è stato uno dei musicisti cui do il credito di importanti ispirazioni originali, input, quegli agganci di sensibilità e di linguaggio che a un giovanetto come me, questo è un, che abbiamo ascoltato, è un pezzo che ho scritto quando avevo 15 anni e mezzo, l'ho inciso che ne avevo 16, come dicevo precedentemente, e che musica ascoltavo in quei tempi? Ascoltavo certa musica inglese e americana che arrivava in Italia abbastanza esotericamente per pochi. Mi ricordo che si andava in Svizzera a Lugano, io sono milanese, ai tempi vivevo a Milano e con un mio amico fotografo Gabriele Di Bartolo andavamo spesso in Svizzera dove c'erano dischi di importazione stranieri che in Italia erano irreperibili, E quindi ascoltavo Dylan, ascoltavo Donovan, ascoltavo certe avanguardie americane come i 13 Floors Elevator, gruppo psichedelico Ante Litteram, ascoltavo Dave Clark Five e ascoltavo tra gli altri questo Roy Harper, musicista inglese, che aveva, che tra l'altro vidi dal vivo in uno dei viaggi che facevo regolarmente a Londra per avere il gusto di stare 10 anni avanti. Io nei weekend ho cominciato abbastanza presto a lavorare suonando e a potermi anche permettere di viaggiare con una certa frequenza, e andavo regolarmente, sono andato regolarmente per anni, appena potevo, quasi ogni weekend oppure ogni 2 settimane a Londra, venerdì, sabato e domenica, o sabato e domenica, e a fare un pieno di musica, perché la Londra di allora, 1969-70, era nel pieno dell'esplosione creativa, c'era veramente l'illusione, sembrava che la nuova generazione, i giovani, potessero veramente farcela a prendere in mano non solo così la creatività, come è normale che sia, ma anche l'economia, nel senso che c'erano giovani imprenditori che intraprendevano, chi nella moda, chi nel fashion, chi nell'artigianato, chi nella pittura, chi nella fotografia, chi nella musica, nella danza, nel teatro, chi nella ristorazione, con idee nuove e creative ognuno intraprendeva, e c'erano quindi ristoranti, negozi di vestiti, negozi di arredamento, negozi dove trovavi oggetti per la casa, galleria d'arte, studi fotografici, librerie, negozi ovviamente di dischi e di musica, film underground, che avevano un loro circuito, insomma una ventata di vitalità giovanile che aveva il favore anche del mercato. Questa era la grande novità, certo, perché le avanguardie sono sempre state note per essere distanti, ahimè, dal mercato. Ecco, in quel raro momento, in quegli anni fortunati, io dico che il decennio importante nella mia vita e in quella di molti altri della mia generazione non è tanto 60-70, ma è 65-75. In quei 10 anni veramente è successo di tutto nel mondo della comunicazione, dell'arte, e anche poi con ricadute abbondanti nel sociale, nella cultura, nei modi, nella vita della gente. È successo molto. Certo. Molte cose che adesso alcuni giovani danno per scontate e pensano che siano, esistano da sempre, come libertà acquisite, mentre invece non esistevano. Sono quelli della nostra generazione, della mia generazione, che a quei tempi, anche con fatica, con impegno, con determinazione, ma soprattutto con gioia, con piacere, con la voglia di conoscere, hanno contribuito a conquistare, a fare diventare fatti di costume, cambiando la cultura. Ricordo, e quindi Roy Harper era uno dei musicisti che ascoltavo. Io ricordo Life Mask di Roy Harper, ti ricordi? Pezzo, ecco. Life Mask di Roy Harper, te lo ricordi? Disco che, certo, si apriva, bellissimo, un disco, uno dei più bei dischi che ha fatto. Certo. Un anno dopo hai lasciato quindi Stormy Six perché le strade si sono divise e sei approdato a un primo album meraviglioso che è stato sentito da Paolo Giaccio, e l'album si chiamava Viaggio, è del 1970. Paolo Giaccio ci ha sentito, è stato entusiasta di questo album e ti ha chiamato a fare parte della Mitica per voi giovani. Mitica perché per voi giovani era una trasmissione radio che ha insegnato a fare musica e a sentire musica a una generazione, mia compresa, chiaramente. Ah. Senti, sono di quella generazione, sì, di per voi giovani, sono quella della generazione che la... parentesi, perché abbiamo lanciato prima l'idea che se qualche ascoltatore volesse fare delle domande potrebbe interfacciarsi con la mia pagina, certo, in Facebook, scrivere lì le domande e io che la sto monitorando, per la verità con l'aiuto di una splendida e generosissima amica, avrei potuto anche rispondere a qualcuno. Se sei d'accordo, di tanto in tanto diamo un po' di spazio a quelli che fanno delle domande. Certo, certo, certo. Ecco. Allora, prima di rispondere, di riprendere il discorso di Super Voi Giovani, ok, e così incoraggiamo magari qualcun altro che sta ascoltando, se ha voglia di fare delle domande o di intervenire, di andare sulla mia pagina di Facebook sotto il link di questo programma e scrivere quello che vuole. Ad esempio, io vorrei salutare e ringraziare Orlando Furioso, bene sì, Orlando Furioso, che scrive, gentilissimo, che bello sentire la voce di Claudio in radio. Bravo, grazie a te, bravo tu che scrivi questa gentilezza. Poi abbiamo Nicola Calì, che ha condiviso il link sulla sua bacheca, anche due domande, ecco qui, anche Bob Sinclair. Abbiamo una domanda da addirittura, questa è una celebrity, Susanna Schimperna, scrittrice, conduttrice radiofonica, televisiva, che conosco bene di fama e anche non troppo bene personalmente, che fa una domanda e mi chiede, riferendosi così alla mia esperienza di quasi tre lustri, 15 anni da monaco induista, so che nel corso di quell'esperienza hai come obiettivo avevi aspirare alla santità, aspiri ancora alla santità? E se non aspiri alla santità, a cosa aspiri? Allora, risponderei a Susanna Schimperna dicendo che no, per la verità non aspiro alla santità. È vero che per un certo punto della vita ho aspirato così, ho lavorato da apprendista santo. Io mi ricordo benissimo che quando avevo 17 anni, un giorno a Milano, passando sotto un cartellone pubblicitario enorme che mi aveva colpito, ebbi come così una sorta di visione, ispirazione, che in quel momento realizzai che avrei voluto nella vita o fare l'artista o essere un artista, musicista nel fatto specifico, o sulla base degli interessi che avevo per le filosofie orientali e che coltivavo leggendo e straleggendo e ultraleggendo tutto quello che trovavo di quei mondi e di quei modi, che erano di fatto poi un approccio che potrebbe apparire religioso, spirituale, ma in realtà io lo vivevo come un viaggio nella psicologia del profondo, alle origini della coscienza, dove il fascino per me della scoperta e della conoscenza era capire finalmente come stanno le cose, cioè quelle solite tormentoni di domande che a volte qualcuno si fa perdendo tempo per la serie chi sono, dove vengo, dove vado, che ci stiamo a fare qui, tutte queste cose. No? Ecco, mi attraeva molto anche questo tipo di ricerca, per cui ai tempi a un certo punto ho deciso che mi avrei preferito fare il santo, che valutavo, dovendo scegliere della vita, che fai da grande, ma farei il santo veramente. Poi al secondo posto mi dice, se poi non ce la faccio fare il santo, come già sto facendo, ma l'artista, non c'è dubbio, cioè non c'è nulla di meglio che fare l'artista dopo il santo. Quindi a Susanna Schimperna rispondo, no, non aspiro ancora alla santità, anche perché l'unica cosa che con certezza ho capito dopo 15 anni di ricerca cosiddetta spirituale è classicamente al solito che tanto è sterminato è il campo della conoscibile che mai nessuno potrebbe ragionevolmente dire di averci capito qualcosa. Quindi non bastando 15 anni ho deciso di riprendermi la vita nel mondo cosiddetto, di tornare nel mondo, e quindi ho ripreso anche una vita artistica, professionale in tutti gli aspetti, e se ti devo dire a cosa aspiro ora come a prima anche di quando per un incidente di percorso ho aspirato a fare il santo per una quindicina d'anni, ora aspirerei a essere in grado di fare qualcosa di utile per me e per gli altri, ovviamente non dico solo per gli altri, sarebbe già una specie di patologia da post ricerca della santità, ma anche per me, cioè per tutti sostanzialmente, avere un senso, non buttare via il tempo a fare, dire cose senza senso che non avessero alcuna utilità per alcuno. Se invece scrivere canzoni piuttosto che pulire bene da operatore ecologico una strada o una piazza, piuttosto che fare con coscienza il proprio lavoro di medico o infermiere, piuttosto che non cercare di fregare la gente se sei un commerciante, cioè dare i prodotti migliori ai prezzi giusti, i minori possibili, insomma avere un'etica nella vita da qualunque punto di vista la si incroci e la si intrecci professionalmente, che ci consideri con una giusta dose di ragionevole umiltà non troppo superiore agli altri. Ognuno dovrebbe sentirsi perlomeno a blocchi di partenza in una gara dove chi è capace di correre più forte può anche vincere, però come minimo bisognerebbe partire ai blocchi di partenza allineati con gli stessi diritti e le stesse potenzialità. A volte l'etica si scontra anche con l'economia e ci fermiamo per 40 secondi, poi torniamo ancora in diretta in Blu Radio Sera insieme a Claudio Rocchi e dallo studio Sergio Bortolami e Maurizio Calzavara. Domenica 5 settembre, giornata europea della cultura ebraica, arte e ebraismo. Grazie alla comunità ebraica di Venezia e a PRC Codes, al ghetto di Venezia potrete visitare liberamente le sinagoghe, il museo, il cimitero ebraico del Lido e potrete partecipare a itinerari tematici e alla conversazione di Amos Luzzato, l'arte nella tradizione ebraica. In area didattica, laboratori per i bambini, volando sui tetti, l'arte di Chagall. Alla sera, un concerto. Per prenotare e ricevere informazioni, chiamare il Museo Ebraico di Venezia 041 71 53 59 www.museoebraico.it. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Questa è la tua prima luna che vedi fuori di casa sapendo di non ritornare. Oggi sei uscito e ti sei domandato ma dove sto andando e che cosa farò. Sei finito in un prato mangiando una mela comprata passando dal centro dove i tuoi amici parlavano ancora di donne e di moto e tu ti fumavi la gioia di essere riuscito a fuggire di casa portandoti dietro soltanto la voglia di non tornare. Pochi soldi, sai bene domani, nessuno ti aiuta, sai voglia di chiedere aiuto, ma in quella prigione dove t'hanno insegnato ad amare, poche persone alla volta non puoi ritornare. Puoi amare più gente, puoi vivere in mezzo alla gente, e mentre dormi sul prato, sentendo un po' freddo, piangere forte, tu vedi passare una macchina verde della polizia, non ti vedono neanche, li senti andar via, capisci di colpo che il loro discorso è diverso dal tuo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:40 minuti, siamo ancora in diretta su Blu Radio Veneto insieme a Sergio Bortolami, Maurizio Calzavara e ovviamente a Claudio Rocchi. Maurizio. Sì, Claudio, per motivi di budget siamo andati in studio in due, io e Roberta Rossi, che era la voce meravigliosa della tua prima luna, ed un'altra ragazza, ed eravamo compagne di liceo, anni letter, mi pare. Il disco aveva tracce di elettronica sperimentale, seguendo le fascinazioni di Varese, di Ada Varese, che era un musicista contemporaneo, canzoni acustiche e visionarie alla moda di Roy Harper, ecco che ritorna Roy Harper, con una chitarra campionata di George Harrison. La tua prima luna fa parte di una canzone di una generazione, la tua prima luna, una canzone meravigliosa, la tua prima luna forse è stato l'input che ti ha fatto chiamare da Paolo Giaccio, o no? Sì, nel frattempo segnalo che è caduto lo stream audio online, siccome sto monitorandolo, è scomparso tutto, se c'è un tecnico che può dare un'occhiata. E per rispondere alla tua domanda, vero, Viaggio è stato per me un'esperienza fondamentale, perché come hai detto correttamente è stato notato questo disco nel gruppo di lavoro di quella che sarebbe diventata poi una trasmissione che è durata anni e anni e anni, diretta principalmente da Paolo Giaccio con Mario Lozzato Feggiz, Carlo Massarini, Raffaele Cascone, Michelangelo Romano, Richard Benson, Fiorella Gentile, qualcuno forse dimentico, e me anche, dove ognuno aveva un suo spazio quotidiano che gestiva all'interno di quello che era il contenitore del pomeriggio di Radio Rai, Radio 2. Radio 2 ha sempre avuto dei pomeriggi fatti di tanti piccoli contributi che insieme tenevano insieme il flusso della programmazione. Erano tempi, 1969, 70, 71, in cui le radio libere non esistevano, cosiddette. La prima radio libera milanese, Radio 101, 101, Radio Milano International, è nata nel 1976, quindi ben 5 anni dopo. Certo. Quindi puoi immaginare come tutti i ragazzi, i giovani, gli studenti o comunque quelli interessati alla musica si riversassero completamente e totalmente in Italia, nel territorio nazionale, ad ascoltare Radio 2 nel pomeriggio, perché era l'unica finestra dove dei coetanei, noi, suonavano della musica che piaceva a noi e che guarda caso poi era quella che interessava e piaceva anche agli ascoltatori. Non c'erano alternative, regime di monopolio assoluto, quindi grande share d'ascolto, grande esposizione. Io ero al mio primo disco, chiamato a fare parte di questo gruppo di lavoro, ho cominciato anche a fare per la prima volta dei programmi radio, poi ho fatto radio e faccio radio da sempre, perché con la musica è quello che più amo fare nella vita. Sono andato persino in Nepal a costruire una stazione radio alle soglie del nuovo millennio e quindi grazie a Viaggio sono finito in questo gruppo di lavoro. Grazie a questo gruppo di lavoro e al mio programma Per Voi Giovani è stato facile per me essere ascoltato e conosciuto da tanti ascoltatori che mi hanno aiutato poi alla fine, anche conoscendomi grazie a loro, apprezzandomi e comprando i miei dischi, a ritrovarmi a 17-18 anni con in una posizione molto fortunata, dove nei fine settimana suonavo, facevo concerti venerdì, sabato e la domenica, due o tre date a settimana come minimo, e andavo in giro con la mia chitarrina da solo a cantare le canzoni, la gente mi voleva bene, io guadagnavo dei buoni soldi e intanto facevo ancora il liceo, per dirti, per cui sono stato molto fortunato. Ed è il fidanzato con la mia prof, hai scritto. Come? Stavo con la mia prof. Beh, questo ad anni di distanza forse si può anche dire, ad onore della, così, è storia ormai. È storia. Tanti anni fa, del 1970. È vero. Ai tempi mi innamorai follemente di una professoressa giovane, supplente, che aveva sostituito l'ottima professoressa di lettere di ruolo e che aveva pochi anni più di noi sostanzialmente, forse 5 al massimo. 6 forse, doveva essere 23enne in una classe di 17enni, una cosa così, no? E io che sempre a scuola ho amato stare all'ultimo banco, perché così mi sembrava di poter fare i fatti miei, di colpo da quando è arrivata questa professoressa mi sono fiondato al primo banco, immediatamente. E poi siccome avevo una certa abilità con le parole, parolaio sono sempre stato e ancora sono, ero così molto gratificato così in quella che allora si chiamava italiano, cioè, era un personaggio che prendeva, non so, 9, 9 e mezzo, 9 meno nei temi, per dirti, a scuola, perché scrivevo così, con questo modo per me leggero, mi piace scrivere, mi piace parlare, quindi giocavo con le parole tentando di lasciare attaccato qualche significato, ovviamente, anche. E la cosa è stata una vicenda così, che io amavo scrivere. Lei era una giovane professoressa di lettere, erano quei tempi così di rivoluzione a tutti i livelli, dove tutto andava rispettato e ricostruito. Abbiamo cominciato a fare dei gruppi di studio. La democrazia voleva che studenti e professori a un certo punto si confrontassero alla pari, e è successo che ci siamo confrontati molto alla pari, okay. Io e la mia professoressa. Decisamente alla pari. E ritornando un secondo, se posso, per voi giovani, tu avevi uno spazio, lo spazio Rocky. Io ricordo, non so se sbaglio, che la sigla era Volo Magico numero 1 o no? Ti ricordi? La sigla del tuo spazio. Giovani, nella prima edizione. Nella prima edizione, sì, la più importante. Crosby. Dal suo album If I Could Only Remember My Name, era David Crosby allora. Se solo potessi ricordarmi come mi chiamo, che la dice lunga sullo stato di alterazione di coscienza del nostro mentre scriveva la canzone, ed era un pezzo molto breve di una trentina di secondi con cori polifonici, vocalizzi liberi, no? L'ora, no, non so era, se quindi, era sulle 4, avevo dalle 4 alle 4 e mezza mi pare, è vero? Ti ricordi? Com'è? Dalle 4 alle 4 e mezza del pomeriggio. Sì, dalle 16 alle 16.30 esattamente. Del pomeriggio, sì. Me lo ricordo, io vedo perché qui che mi segnalano che parecchi amici su Facebook fanno delle domande. Io, se mi consenti, andrei avanti con questa interazione perché sì, dà uno spirito così vivace, no? Bob Sinclair mi chiede se Viaggio è scritta completamente di mio pugno, è ispiratissima. Viaggio è un pezzo strumentale dell'album dal quale abbiamo appena ascoltato La tua prima luna, e come tutti i pezzi strumentali improvvisati, perché questo è stato in studio, da due musicisti, è ovvio che un'improvvisazione non può più di tanto essere accreditata a uno dei due soltanto. Quindi uno ero io, l'altro era Mauro Pagani, insieme abbiamo fatto Viaggio, che è questa improvvisazione a cui si riferisce Bob Sinclair. Alberto Gorini mi dice: come mai ti sei trasferito a vivere in Sardegna? Alberto, mi sono trasferito a vivere in Sardegna molto brevemente per amore di questa terra, di questo luogo, di questa gente, delle tradizioni importanti. Qui c'è tutta una serie, la Sardegna è unica nel panorama nazionale per tracce di culture altre, qui ci sono strumenti megalitici come addirittura c'è uno ziggurat unico nel Mediterraneo, che è una specie di altare sacro che si ritrova invece in terra così mesopotamica babilonese, no? Quindi Persia, Iraq, ci sono le tombe dei giganti, o strani oggetti misteriosi che io amo definire le unità sanitarie locali di qualche migliaia di anni fa, dove la gente andava a guarire gratuitamente perché sono costruzioni costruite in punti magnetici, elettromagneticamente importanti, alla congiunzione di corsi d'acqua sotterranei, per cui la gente andava a dormire per 5 notti di seguito sopra questi 3 fiumi sotterranei, dove c'era una costruzione adatta con panchine, con giacigli di pietra, dove riposare, e guariva da reumatismi, persino lesioni, fratture, vari tipi di malattie. Ci sono i pozzi sacri, pozzi che scendono nella terra con dei gradini che vanno a perdersi a 20 metri di profondità per arrivare a un punto dove un giorno, una notte, ogni 13 anni la luna piena entra dal pozzo e va a finire esattamente in quell'acqua, e se ti bagni in quell'acqua, in quella fortunata circostanza, ne hai dei benefici. Ora è chiaro che costruire un aggeggio del genere che ogni 13 anni accoglie la luna piena riflessa nel pozzo presume una conoscenza astronomica non indifferente, familiarità con la fisica, i moti delle stelle, degli astri, che nessuno darebbe a dei trogloditi antidiluviani. Umberto Signifredi dice: vorrei un tuo commento sulla nascita dell'adolescenza, magari ne parliamo dopo, perché sì, okay, siamo un po' più avanti arrivati. Come scaletta. Io darei la linea agli amici in studio che sì, adesso abbiamo scelto un altro pezzo da Viaggio, praticamente. Abbiamo scelto la traccia numero 14, che è un pezzo meraviglioso, brevissimo, ma che mi ricorda un momento Finardi, perché te e Finardi c'è un'amicizia da tempo all'epoca. Sì, qual è il pezzo che hai scelto? Non è vero. Non è vero, sì. Sì, con Finardi, Eugenio Finardi, siamo stati amici a lungo per alcuni anni, poi ci siamo ritrovati un attimino magari discronici, e devo dire, a onor del vero, quindi non faccio né delirio di onnipotenza né mi invento qualcosa, di aver sentito Eugenio in più di un'occasione pubblicamente darmi credito di essere stato, per il modo di trattare nella scrittura, nel linguaggio, nella forma canzone, la lingua italiana, uno dei suoi punti di riferimento. Quindi se è vero che ci sono alcune cose tra me e Eugenio che possono apparire assimilabili nel linguaggio, credetemi, non per vanto e non per idiozia, ma per pura verità, il verso è univoco, cioè Eugenio ha ascoltato i miei dischi e ha pensato che fossi bravino con la lingua italiana e la metrica. Ok, allora ci ascoltiamo la canzone. Ok. Blu Radio Sera. Stavo scendendo la strada per comprare delle sigarette. Tre passi ci ho ripensato, avevo voglia di un giornale. Ma non è vero, non sono sincero, volevo telefonare, no, io volevo venire. Sto correndo, manca poco a te. Mi sono fermato per fare benzina ed ho visto un piccione volare. Ma non è vero, non sono sincero, non è che volessi parlare, no, io volevo vederti. Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. E siamo ancora in collegamento con Claudio Rocchi. A te, Maurizio. Sì, Bolo Magico numero uno, da tutti considerati il tuo album migliore. Che ne pensi, Claudio? Sì, no, non sono così d'accordo, anche se veramente, ovviamente. Intanto è stato in assoluto l'album che ha venduto più dischi, quindi quello sì. Una valenza aggiunta che non è soltanto di mercato, ma è anche quella di in qualche modo avere trovato un equilibrio tra il comunicare e il recepire, perché spesso non è trascurabile vedere, insomma, il riscontro significa anche che si è riusciti a parlare una lingua che molti in quel momento stavano parlando. Quindi questo è un dato. Secondo, certo, è Volo Magico si sviluppa e nasce in un momento, è un po' quello che raccontavo prima, di quegli anni con esplosioni creative, con occasioni che ad oggi, ahimè, sembrano non soltanto irripetute, ma addirittura irripetibili, perché io ho anche dei giovani amici ventenni ora, e li vedo anche artisti con grandi talenti e sensibilità, e vedo quanto è più difficile per loro oggi trovare spazi per esprimersi. mentre ai tempi dei miei vent'anni, cioè 1970-71, c'era talmente tanto spazio, c'era talmente tanto da cambiare, rivoluzionare, reinterpretare, rivedere, rimodellare, rimodulare, che chiunque avesse uno straccio di sensibilità e di talento e di capacità aveva molto spazio. Mentre invece ora sembra che tutto sia già stato fatto, tutto sia già stato detto, tutto sia già stato consumato, tutto sia prevedibile, nulla possa arrivare con lo squarcio della sorpresa, della novità, dello stupore. E questi sono argomenti, moti dell'animo e dell'emozione, che Volo Magico di sicuro ai tempi quando uscì mosse in parecchi. Quindi che sia stato o meno il mio album migliore, io personalmente penso di aver fatto cose che nel mio cuore, nel profondo, trovo migliori. Però in un rapporto fra quello che sento e penso io e quello che hanno sentito e pensato in tanti, io, al numero uno ci sta ovviamente Volo Magico. Poi c'era una chitarra strepitosa di Alberto Camerini, che era un pezzo strumentale, la prima facciata era coperta interamente da 18 minuti con una chitarra strepitosa di Camerini. Per motivi di tempo i 18 minuti di Volo Magico non lo possiamo mettere. Ho deciso di mettere un altro pezzo, che è una caratteristica di questo album, si chiama La realtà non esiste, un pezzo meraviglioso che ho sentito centinaia di volte, chiaramente. Certo, La realtà non esiste, certo, è un pezzo che mi porto ancora dietro e che ancora adesso, quando suono e faccio concerti, mi piace riproporre. Tra l'altro è un tormentone buono che mi accompagna nella vita, perché tutti da sempre mi hanno detto: ma che sei pazzo, ma che vuol dire La realtà non esiste, ma sei pazzo? Allora, per l'ennesima volta mi piace, a beneficio di chi non si fosse mai neanche lontanamente posto il problema, chiarire che cosa intendevo e cosa intendo. Quando noi blateriamo e di certezze nel dire le cose stanno così, e magari qualcuno batte pure un pugno, no? Ecco, quel così, quella cosiddetta realtà oggettiva, che in realtà non è altro che la percezione soggettiva individuale di quell'individuo che batte il pugno dicendo le cose stanno così, that's it, è così, quella è una percezione soggettiva, non oggettiva. La realtà non esiste, voleva e vuole semplicemente ricordare a tutti che è molto difficile poter definire una realtà oggettivamente, perché nessuno di noi ha la capacità, né può permettersi il lusso, di liberarsi e affrancarsi dalla sua soggettività, cioè dal modo con cui lui, sulla base delle sue esperienze, della sua cultura e tutto quello che è nel complesso, percepisce gli accadimenti. Sarà successo a tutti varie volte, con questo chiudiamo la spiegazione, di vivere, metti che 4, 5, 6 amici vanno fuori una serata tutti insieme, negli stessi luoghi a fare le stesse cose. Tornano a casa il giorno dopo, raccontano ad altri che li interrogano, com'è andata ieri sera? Uno potrebbe dirti, ah che brutto, tremendo, una noia infinita, quasi le lacrime, no, mi sarei suicidato. Un altro dello stesso gruppo, magari lui, aveva sognato tutta la notte, che ne so, di farsi una del gruppo, capito? È andata a buca e ha vissuto tutto come un delirio di tristezza. Un altro che magari non si aspettava nulla e ha avuto la sorpresa di trovarsi questa che è liberata dalle pressioni del primo, che invece era attratta dal secondo e ha fatto la sorpresa di regalargli sì, no? Quell'altro ha detto, ah, che serata meravigliosa, il cielo è sceso sulla terra, una dea è venuta da me senza che io potessi immaginare nulla. I due parlano della stessa serata e degli stessi eventi, evidentemente da punti di vista differenti. Che dire degli altri quattro? Uno aveva mangiato troppo e ha fatto tutta la serata col mal di stomaco. Il quarto aveva bevuto troppo e in una sorta di delirio di onnipotenza aveva maltrattato tutti, sentendosi superiore tutta la sera senza avere il coraggio e la forza di oggettivamente confrontarsi con gli altri. Il quinto e il sesto li lasciamo perdere perché in perfetta simbiosi mutualistica, con un incontro magico e complementante, hanno passato la sera e la notte impegnati orizzontalmente in un rapporto assolutamente alla pari. Quindi quando i sei raccontassero o avessero raccontato o dovuto raccontare al giorno dopo com'è andata ieri sera, avrebbero raccontato sei cose diverse della stessa sera, della stessa circostanza, perché ognuno ha vissuto diversamente. Questo significa La realtà non esiste, nient'altro che questo. Ok. Blu Radio. quando stai mangiando una mela, tu e la mela siete parti di Dio. Quando pensi a Dio sei una parte di ogni parte, niente fuori da tutto. Quando vivi tu sei un centro di ruota e i tuoi raggi sono raggi di vita. Puoi girare solo intorno al tuo perno o puoi scegliere di correre e andare. Quando dormi tu sei come una stella e il respiro è come fuori dal tempo. Quando ridi è come il sole sull'acqua, sai che farne della vita che hai. Quando ami tu ridoni al tuo corpo quel che manca per riempire un abbraccio. Quando corri sai essere lepre e lumaca, se hai deciso di arrivare o restare. Quando pensi stai creando qualcosa, l'illusione di chiamarla illusione. Quando chiedi tu hai bisogno di dare, quando hai dato hai realizzato l'amore. Quando gridi la realtà non esiste, hai deciso di essere Dio e di creare. Quando chiami tutto questo reale, hai trovato tutto dentro ogni cosa. Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Da poco passate le 22, insieme a Sergio e Maurizio c'è anche Claudio Rocchi. A te Maurizio. Claudio, in questo disco Volo Magico numero 1 c'era una voce meravigliosa, era quella di Donatella Bardi. Donatella Bardi, certo. Donatella Bardi che quando la incontrai la prima volta era la fidanzatina di Alberto Camerini. Alberto Camerini veniva, suonava la chitarra in Volo Magico e Donatella era la sua fidanzatina, era sempre con lui, tra l'altro era un'ottima cantante, quindi fu del gruppo ed è sua la voce femminile che dappertutto, cioè dappertutto, che risuona in Volo Magico qua e là. Esatto, noi abbiamo un disco in radio di Donatella, della Electra. Disco, sì. Questo è l'unico che ha fatto. A buttare un vulcano. Esattamente, disco molto molto bello. Donatella era una splendida ragazza, veramente ai tempi che noi frequentavamo i mondi della musica americana, anglosassone, inglese, con tante autrici, cantanti di rilievo, una per tutte mi viene in mente Johnny Mitchell, certo, piuttosto che ne so, tante altre che adesso mi viene in mente nessuno, Johnny Mitchell è l'unica, ad ogni modo ecco, qualcuna paragonabile per talento, pulizia vocale, ispirazione, capacità di suonare e cantare, presenza anche, era una bellissima ragazza che sul palco magnetizzava senza nessuno sforzo l'attenzione. Quindi grande merito a Donatella che ahimè ha lasciato il corpo e il pianeta già da qualche anno, cioè non è più con noi. Ed ecco, è tutto. Io approfitterei al volissimo, giusto per non dare torto agli amici che su Facebook continuano a scrivere, se passeremo ad Essenza, Umberto Signifredi, arriveremo alla tua domanda. Alex Crocco mi chiede la mia esperienza con Alejandro Jodorowsky, ho letto che l'hai incontrato e intervistato, hai dei ricordi salienti di quell'incontro magico? Cosa ne pensi dei tarocchi e della lettura dei tarocchi? Questo è un campo sterminato, Alex, si potrebbe parlare all'infinito. Certo che l'incontro con Jodorowsky è stato importante. Jodorowsky è una persona veramente non ordinaria. Alcuni lo ricorderanno come autore e regista cinematografico, La Montagna Sacra, Il Topo, grandi classici del cinema visionario, surreale e psichedelico. È l'animatore del Cabaret Mystique a Parigi, dove con i figli e la famiglia da decenni intrattiene leggendo le carte leggermente, liberamente, non per dovere ma per piacere, chiunque vada a chiedere i suoi riscontri. L'incontro con lui è straordinario perché è l'incontro con una persona non ordinaria. Un solo brevissimo aneddoto, poi chiudiamo. Quando nella galleria di Milano, dove lui presentava un suo libro di poesie, e io ero lì per intervistarlo, appunto. Nel mezzo della sua presentazione, ascoltata in religioso silenzio da centinaia di adepti, non pubblico ascoltatori, ma veri adepti, io mi sono alzato perché all'improvviso fui colto da una irresistibile, irrefrenabile necessità di andare alla toilette, mi scappava la pipì, non ce la potevo più fare, stare fermo. Non ho potuto evitare di creare disturbo. Nel silenzio più assoluto, uno che cerca di alzare e, per quanto discretamente, raggiungere la toilette in punta dei piedi, il risultato è che tutti si sono girati a guardare me che cercavo di guadagnare la toilette. Anche Jodorowsky si è fermato nella sua presentazione, tipo proprio beccato, e mi dice: tu che fai? Vedi che tutti sono girati verso di te, hai tolto completamente la concentrazione del momento, dice a me in francese. Io, che conosco il francese, gli rispondo: mi scuso molto, maestro, ma mi scappa la pipì in un modo irresistibile, non posso fare meno di andare a cercare il luogo adatto per liberarmi. Anche lui scoppia a ridere, tutti scoppiano a ridere, e lui dice: ecco, vedete, questo è un poeta, ha il coraggio della verità. Mi ricordo questo evento, poi siamo diventati amici anche, ci siamo rivisti sul set di un film di Franco Battiato, che era Musicante, dove lui interpretava Beethoven nella vita biografica di Beethoven. A voi in studio. Benissimo, Norma del Cielo, Volo Magico numero 2, erano delle session di Volo Magico numero 1. Io ho scelto un pezzo meraviglioso che suono spesso e volentieri: L'arancia è un frutto d'acqua. Blu Radio Sera. Così che per una vita non si accorgono di entrare e di uscire per la stessa porta, e ci sarà un paradiso a forma di stare. Cavallo ed un paradiso per l'uomo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Che intensità. Mamma. C'erano grandissimi musicisti in questi dischi di Claudio Rocchi. Ce li puoi citare, Claudio? Almeno i musicisti di questo album. Te li ricordi? Dunque, stiamo parlando della Norma. La Norma del Cielo è un album che in origine avrebbe dovuto. Il Volo Magico avrebbe dovuto essere un doppio 33 giri, cioè come usava a quei tempi, due album. Certo. La prima parte era Volo Magico, con gli altri pezzi La Realtà Non Esiste, Giusto Amore, tutto quello che ho da dire, e la seconda parte dello stesso Volo Magico numero uno avrebbe dovuto essere quella che poi è diventata La Norma del Cielo. Quindi esatto. Sono gli stessi musicisti di Volo Magico, sono le stesse sedute di registrazione, quindi Alberto Camerini, Ricky Belloni, chitarristi, Lorenzo Lassaro alla batteria, c'era un bassista Eno Bruce, Mauro Pagani, flauti e violini qua e là, Donatella Bardi, voce femminile, Eugenio Pezza, tastiere, pianoforte e aggeggi vari, io, chitarre, basso, elettriche, acustiche, e altri interventi, c'era, mi ricordo, un flauto di Gianni Del Ben, tu friulano che conobbi da quelle parti, e poi adesso forse mi sfugge qualcuno, ma più o meno il gruppo di lavoro era quello. Era quello, sempre musicisti di grandissimo livello. Purtroppo dobbiamo correre, Claudio, dobbiamo passare ad Essenza, l'album dello ascolto che uno su Facebook te l'ha chiesto. Essenza, tu lo reputi il tuo disco più bello, secondo te? Sì, anche perché è associato proprio alla genesi di questa produzione, alla realizzazione. Io avrei dovuto andare in studio per fare Essenza con lo stesso gruppo di lavoro di Volo Magico, e la sera stessa della prima seduta per fare un disco, allora si stava in studio 2-3 settimane, poi un'altra settimana a fare missaggi, sono un mese di lavoro praticamente. Alla prima sera di registrazione ricevo la telefonata di uno del gruppo come portavoce, che dice: a nome di tutti qui si sciopera. Questo, dopo il successo, perché così è stato, di Volo Magico, tutti gli amici musicisti avevano deciso in modo collegiale, con un'assemblea, di arrabbiarsi con me, perché secondo loro Volo Magico era un lavoro di un collettivo, mentre invece uscì a nome mio, privilegiando me, la mia vita professionale, la mia carriera, la mia vita, e non esponendo allo stesso modo, secondo il loro punto di vista, a tutti gli altri che avevano partecipato. Ora, è ovvio che c'è parte di ragione in tutto ciò. Quando si lavora con un gruppo di musicisti creativi, ognuno mette la sua parte, per cui quello che si realizza insieme, sarebbe stupido che qualcuno potesse in qualche modo ascriverlo soltanto a se stesso, al suo genio, alla sua ispirazione. Non è il mio caso. Altra cosa però è come funzionano le cose nel mondo della musica professionale, cioè tutti vanno in studio con altri musicisti, tutti accolgono i contributi di tutti, non tutti, per fortuna aggiungo io, scrivono ogni singola nota, ma lasciano spazi perché la sensibilità, la creatività dei colleghi, collaboratori possa esprimersi, e a nessuno dei collaboratori, di quelli che fanno i dischi come turnisti, professionisti, grandi musicisti o come ospiti anche, viene in mente di rivendicare la paternità dei pezzi. Che uno faccia un bel assolo di chitarra su un pezzo che è scritto, testo, musica, struttura e spesso anche arrangiamenti nelle linee essenziali, ovviamente, dall'autore, in quel caso me, non mi sembrò allora ragionevole la loro rivendicazione, e così loro giocavano sul fatto che si va in studio stasera, prendere o lasciare, che fai, senza di noi sei fritto, no? Allora io dissi, ricordo benissimo, che no, non mi sembrava ragionevole, soprattutto magari fosse anche stato ragionevole, non mi sembrava corretto il modo con cui tutto fu affrontato all'ultimo minuto in una sorta di modo ricattatorio, no? O la va o la spacca. Per cui ringraziai tutti, salutai tutti e me ne andai da solo in studio. Sì, esatto. Mentre andavo, allora non c'erano ancora i telefonini, mentre andavo da solo in studio facendo due passi per schiarirmi l'idea adesso che faccio, mi venne in mente di telefonare a un amico musicista, Mino De Martino, che era il leader storico di un gruppo pop degli anni 60, si chiamavano I Giganti, quelli di una certa età se li ricorderanno, certo. A Sanremo, mettete dei fiori nei vostri cannoni, oppure tema, cosa pensi dell'amore, penso anche che io il presidente, la cosa che... ecco I Giganti. Giganti. Mino Di Martino era il chitarrista e per una serie di circostanze eravamo amici da anni, un ottimo chitarrista e musicista, per cui chiamai lui al volo e detto, senti Mino, sto andando in studio per fare il disco nuovo, si sono scioperati tutti i musicisti, non è che voglio di venire da fare, magari cioè con te magari siamo già in due, no? Si fa qualcosa, poi se hai in mente qualcuno, conosci un bassista, ha fatto mente locale, in mezz'ora con lui ha portato un percussionista e un bassista, poi ho chiamato altri amici, avevo conosciuto quelli del gruppo degli Osanna di Napoli, Corrado Danilo Rustici chitarrista e Liodan flautista, telefonai anche a loro, insomma alla fine, all'ultimo minuto, incredibilmente, nel giro di un paio d'ore ho messo insieme un gruppo completamente diverso da quello con cui pensavo di andare a fare il disco. Ed è venuto quindi in uno spirito totalmente imprevisto, che era sorprendente per me in prima istanza quanto per gli altri allo stesso modo, un lavoro che è largamente improvvisato e soprattutto con quella determinazione, quella spinta, quel drive che arriva dal confrontare con un certo successo, senza paura, una situazione d'emergenza, no? Avrei potuto andare in paranoia, dire oddio, adesso che faccio? E invece per la grazia del divenire ecco che mi ritrovo degli ottimi musicisti che non avrei mai sospettato di avere con me per quell'esperienza, tutti nel giro di due ore. Questo è il gruppo di essenza. Rispondo anche a Umberto Signifredi che su Facebook nella mia pagina mi chiede un commento sulla nascita dell'album, secondo me dice lui uno dei tuoi lavori più belli, e sull'incontro con musicisti, ecco, ho già credo risposto su tutto ciò più o meno. E poi Andrea Boggini mi dice è difficile diventare un artista cantautore oggi, beh l'ho detto anche prima, credo in generale che per i giovani sia più difficile entrare nei mondi professionali ora di quanto non lo fosse allora per noi, perché c'erano più spazi. Se qualcuno vuole fare domande e intervenire sulla mia pagina di Facebook c'è il link per farlo. A voi in studio. Se abbiamo scelto il pezzo che tu hai scelto, è una compilation che è uscita un po' di anni fa, Templi e Mercati, è un pezzo da Essenza. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. ne sei cosciente, donna. Tu sei il sole, tu sei il cielo. Sei cosciente, uomo, uomo, uomo, uomo. Sei l'amica e la sorella, donna. Tu sei il figlio, tu sei il padre. Sei compagno ed il fratello, uomo, uomo. Spesso è in armonia, ci incontriamo e ci lasciamo. Finché i templi sono templi, e i mercati sono mercati. che avremo porte aperte. Non saremo a cercar chiavi. Finché non ci illuderemo. Di inventare quel che già. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo ormai agli sgoccioli, ultimi minuti di Blu Radio Sera, poi lasceremo spazio all'hard rock, heavy metal. Di Renato Ferro, Maurizio. Siccome Claudio a Rockway non si taglia niente, facciamo la prima puntata e ne facciamo un'altra prossimamente, così continuiamo ad esplorare la musica di Claudio. Sei d'accordo? Sì, proprio a te. A metà. Appunto, quindi abbiamo altre quattro puntate facendo i conti. Io. Non avevi la regola dei tre minuti. Ma essenza doveva essere così in ogni caso. Sperimentale al 100%, quindi doveva essere questi pezzi dilatati. Era la caratteristica dell'album. Ok, benissimo. Claudio, sì, abbiamo deciso questo. Allora, la prossima puntata cercheremo di allargare l'orizzonte con gli altri dischi. Una curiosità velocissima, io ho qua il tuo singolo, Viaggio in India, col poster. È una rarità adesso. È con il poster, e ricordo che Nanni Loy l'ha messo come Skiff Parade al primo posto, è vero? Nella classifica di Skiff Parade hai scritto te era al primo posto. Esatto, sì. Che è qua davanti, eccolo qua. È questo. Sul tavolo c'ho anche cerchi, scusa, grazie, Claudio Rocchi, sì. E cerchi, sì, che era il lato B e il lato A, sempre il singolo. Sì. È così, versi e musica di Claudio Rocchi c'è scritto nel disco, quindi, versi e musica, come si usava una volta. Ok Claudio, purtroppo dobbiamo finire, però chiaramente questa è la prima puntata, arriverà una seconda per continuare a parlare di te e della tua musica, chiaramente. Radio Veneto. Radio Veneto, grazie agli amici che hanno interfacciato l'ascolto con le loro domande su Facebook, la mia pagina, grazie a tutti quelli che non hanno fatto altro che ascoltare, ma soprattutto di quelle esperienze di questo prodotto. E non so se sono le stelle da voi, non so, qui c'è un cielo bellissimo. Sì, sì, sì, anche qui. Ci sono. Ciao Claudio, alla prossima. Alla prossima Claudio, grazie di tutto. Buonanotte a te. Blu Radio Sera. Maurizio. Non abbiamo fatto in tempo, è logico. I dischi sono tanti e tanta musica e tanti ragionamenti musicali. Tante cose da dire, non solo musicali. Esattamente. Senti un po', chiudiamo con la traccia 11 e tu sì. Il titolo. E diamo appuntamento a martedì prossimo ai nostri ascoltatori con altre chiacchiere musicali del martedì sera. Settimana prossima avremo Drupi. La traccia 11 è La Rana, che fa parte di un altro disco di Claudio Rocchi, Il Miele e i Pianeti, un disco molto bello, molto particolare, con una bella copertina. La Rana, a domani, ci sono anche domani con Rocco Baby dal vivo. Giusto, beh, tu sì. Vabbè, alla prossima. Alla comunque. Prossima, ciao. Blu Radio Sera. Nella vita io voglio fare l'uomo e lo voglio far bene, ma tu che mi hai insegnato, mi hai dato fucili e pistole per giocare alla guerra e non mi hai detto niente del gioco di lavorare la terra. Nato in città da mio padre, attraverso mia madre, niente frutta sugli alberi intorno, niente boschi e animali. Ho impiegato 20 anni di vita per riuscire a vedere più chiaro, oltre il fumo di chi mi ha insegnato illusioni inventate a realtà. E da adesso che riesco a sentire e a vedere da solo, sono solo un ragazzo che cresce a imparare a essere uomo. Realizzando in me stesso che un gesto può avermi le aspetti e tutto quello che vedi sei tu.